Sono uscito al negozio dove andavo a fare la spesa, ho sentito due uomini che parlavano e dicevano: sì, quest'estate mi sa che ci toccherà mettere un campo di patate per far fronte alla crisi. Mi sa che farò lo stesso anch'io. Buona giornata. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Deborah, buongiorno, come stai? Buongiorno caro Mauro, sto bene, voi in studio? Vedo che mi avete preparato, anche se sono a distanza, una scaletta piuttosto ricca, piena di ospiti molto interessanti questa mattina. Ah, guarda, abbiamo delle novità perché qui davvero queste misure emergenziali si rincorrono una dietro l'altra. Appunto, segnalavamo ieri, abbiamo due decreti legge e in uno di questi due decreti legge abbiamo trovato la notizia da cui dobbiamo partire oggi. E esatto, con l'uovo di Pasqua praticamente, la sorpresa di Pasqua abbiamo trovato. Ecco. Sì, però diciamo siamo rimasti un po' come quando da bambini trovavamo una sorpresa che non ci piaceva, non so, quella da femminuccia per il maschietto e viceversa. Allora, esatto. Che è successo? È successo che in uno dei due decreti legge che segnalavo ieri, per la precisione il decreto legge 23, lo chiamiamo decreto liquidità, sono stati rivisti i criteri per assegnare i 600 euro ai professionisti iscritti alle casse privatizzate, alle casse di previdenza. Quindi stiamo parlando, sono un po' pedante ma lo faccio per evitare, per non ingenerare confusione. Sono quei professionisti come gli avvocati, i commercialisti, i ragionieri, i consulenti del lavoro, gli stessi giornalisti, insomma tutti coloro che a certe condizioni di reddito erano stati indirizzati alle loro casse di previdenza dei professionisti privatizzate, per avere da loro i 600 euro. Che è successo? Che sono cambiati i criteri e il decreto legge di fatto stringe questa platea, riduce questa platea. Allora abbiamo richiamato, e lo ringraziamo per la cortesia, per essersi messo a disposizione, il presidente dell'associazione di tutte queste casse di previdenza. L'associazione si chiama ADEP e il presidente è il dottor Alberto Olivetti, che era già stato nostro ospite proprio pochissimi giorni fa per spiegarci come le casse si stavano attrezzando, per chiedergli: e adesso che succede per questi professionisti? Presidente, buongiorno, bentornato e grazie. Buongiorno a voi. Buongiorno Presidente. Grazie. Tra l'altro, dell'invito. Mauro, stavo pensando, capiamo che siamo in una situazione di emergenza, legiferare in queste condizioni è molto complicato, ma diciamo che questa situazione è ancora più grave se pensiamo che migliaia di bonifici erano pronti da questa mattina, Presidente. Questo rende ancora più sgradevole l'intera situazione. A che punto siete? A che punto siamo? Quello che avete detto. Siamo 14 categorie di professionisti, tra i quali anche la mia, che sono i medici dentisti, sul fronte del Covid, che ricevono questo bello uovo di Pasqua. Io ho 35.000 specializzandi che di fatto adesso sono esclusi dai 600 euro. Ecco, spieghiamo proprio le motivazioni per allora, cui è arrivata questa esclusione. Cosa è cambiato nelle ultime ore? È cambiato che sono stati definiti in maniera più precisa e più netta gli aventi diritto ai 600 euro e questo esclude i pensionati di ogni genere, i dipendenti e coloro che non hanno un rapporto esclusivo con un'unica cassa. Se qualcuno ha un rapporto con due casse, faccio l'esempio usato in specializzanti, ma potrei usare l'esempio degli psicologi, potrei usare l'esempio degli avvocati che magari insegnano, eccetera. Se hanno una posizione in INPS, a questo punto non possono ricevere i 600 euro da parte delle casse con il decreto, col fondo di ultima istanza. D'altro canto però se vanno all'INPS non lo ricevono dall'INPS perché non sono esclusivamente iscritti all'INPS, ma sono iscritti a una cassa di previdenza privata. Allora, paradossalmente, il concetto di esclusività, se un avvocato insegna oppure se un avvocato fa il giornalista, quindi ha posizioni in due casse, paradossalmente non è esclusivo in una cassa, quindi non può ricevere i 600 euro. Cioè, praticamente la legge ha detto: se avete iscrizioni in due gestioni, una dell'INPS o anche in due gestioni delle due casse, di due casse differenti, esclusività. Allora non potete prendere i 600 euro. Con il che probabilmente lo spirito sarà anche quello di dire: ah, evitiamo di duplicare i sostegni, eccetera. Ma come giustamente avverte lei, dottor Olivetti, qui però tagliamo fuori proprio la gente che ha maggior bisogno, perché. Lei faceva l'esempio di specializzandi che magari hanno anche, che so, potrebbero essere dei pubblicisti. Lei ricordava ad esempio la pubblicistica, quindi versare peraltro poco di solito all'ente di previdenza dei giornalisti, il mio ente, il nostro ente, mio e di Deborah. Quindi in questo modo però gli assegni si sono fermati, giusto? Voi eravate pronti a farli partire? Noi saremmo partiti oggi con i mandanti bancari. Sì. A questo punto però, dato che abbiamo fatto una lista sulle indicazioni che ci aveva dato il governo, una lista degli aventi diritto con autocertificazione, abbiamo dovuto rivedere queste autocertificazioni alla luce dei nuovi requisiti più stretti, chiedendo un supplemento di autocertificazione che di fatto ha bloccato quelli che già erano stati passati, stiamo parlando di 420.000 persone, li abbiamo bloccati. Perché a questo punto, se erogassimo degli assegni impropri, potremmo poi ricorrere alla fattispecie del danno erariale, perché poi noi anticipiamo, ma i soldi ce li restituisce il pubblico. Certo, tra l'altro, ecco. Appunto. Prego, Deborah, prego. C'era un messaggio su WhatsApp, vai pure. No, allora leggilo. No, andiamo subito allora a sentire cosa chiedono gli ascoltatori. No, perché dice coloro che pur avendo una partita IVA hanno anche un lavoro dipendente, quindi restano esclusi. Sì, è quello che ci ha spiegato appunto il dottor Olivetti, è così. Io ho una partita IVA e faccio magari un lavoro, poi sono anche dipendente, però non prendo i 600 euro, pare né dall'una né dall'altra parte. Quindi, perché non sono esclusivo. Esattamente, quindi restano però a piedi queste signori, magari sono due attività che sono entrambe bloccate a causa del coronavirus. Oppure ne deve fare due perché una non gli basta dal punto di vista della vita quotidiana. Quindi vengono danneggiati coloro che sono in difficoltà. Io penso magari a colleghi biologi che hanno dei redditi all'inizio molto ridotti, che devono magari fare qualche ora di insegnamento, se lo possono fare, hanno doppio reddito, quindi sono fuori. Peraltro ricordiamo, qualche ascoltatore ci segnala, e vabbè, ma lì spesso ci sono dei redditi bassi, sono dichiarati redditi bassi, eccetera. Allora tagliamo corto su questa vicenda. Ci sono delle categorie che svolgono anche la libera professione ed è un reddito molto basso, però magari sono di loro già dipendenti. Questa norma qui li taglia fuori, che loro abbiano poi da mantenersi oppure no. È così, Olivetti? Certo, cioè sicuramente così. Quindi adesso noi cosa facciamo? Facciamo il supplemento di raccolta dati sulle basi delle nuove autocertificazioni che stiamo richiedendo a coloro che avevano già passati il vaglio della congruità e della conformità ai requisiti. A questo punto le riprendiamo, ci vorranno dei giorni, andiamo dopo Pasqua, avremo il prossimo tagliando di controllo con il Ministero dei Vigilanti il giovedì 15. Al giovedì 15 daremo il risultato di questa nuova valutazione, che sicuramente escluderà quota parte degli aventi diritto, e poi valuteremo come pagare, perché lì rimane sempre non definito il concetto della capienza del fondo di ultima istanza, perché lì abbiamo, passatemi il termine, 333.333 periodico gettoni da 600 euro. Le domande sui vecchi requisiti erano 420.000. Adesso quindi, quali saranno sui nuovi più restrittivi requisiti? Questo lo sapremo la settimana prossima. Quindi allora, prego Deborah, prego. No, stavo pensando se, visto che per integrare anche gli iniziali 600 euro le casse intervenivano appunto con cifre aggiuntive per erogare magari degli assegni un pochino più consistenti, se eventualmente tutte queste persone che vengono escluse in questa maniera possono essere comunque aiutate dalle casse. Così sto parlando in libertà proprio per capire qual è la disponibilità. È corretto quello che lei dice, tant'è vero che varie casse stanno trovando delle azioni parallele o aggiuntive. Per esempio la mia cassa, quella dei medici, eroga 1.000 euro al mese per 3 mesi ai liberi professionisti, cioè a coloro che non hanno esclusivamente un rapporto di convenzione o di dipendenza, non ai pensionati, perché questi purtroppo sono esclusi dato che assorbiamo la normativa nazionale. La beffa che viene da questo passaggio, che i 1.000 euro, se mai venisse approvata la nostra, le nostre delibere, perché queste devono essere approvate dai ministeri vigilanti, anche se in regime di emergenza, sono tassate. Quindi noi ci troviamo paradossalmente da un patrimonio che è stato accumulato a garanzia della previdenza, che paga già le tasse, e noi ci lamentiamo perché negli altri paesi europei i patrimoni non pagano le tasse, i patrimoni previdenziali. Bene, da questo patrimonio già tassato noi ricaviamo delle prestazioni assistenziali che eroghiamo, autorizzate dai ministeri, bene, le eroghiamo e ci applichiamo un'ulteriore tassazione, quasi un atto civismo di Stato. Senta Presidente, le chiedo una cosa. Lei prima ha evocato il caso degli specializzandi, poiché in questo momento i medici, in generale tutta la categoria degli operatori sanitari, lo sappiamo che è in prima linea, lo vediamo tutti i giorni. E qualcuno cade. Esatto, e purtroppo tutti i giorni anche contiamo i morti. Quanti sono? Lei ha idea di quanti potrebbero essere quelli che restano impigliati in questa stretta di assenza dei 600 euro con questo cambio di indirizzo? Gli specializzandi sono più di 30.000, credo sui 35.000. Questi in automatico sono fuori, perché la borsa di studio di specializzazione viene erogata dall'ex MIUR, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e quindi afferisce, essendo pubblica e non data dall'ENPA, ma afferisce alla gestione separata dell'INPS. Quindi finché sono in corso di specializzazione i soldi della borsa li prendono dalla gestione separata, pagano la gestione separata dell'INPS, quindi li ricevono dal pubblico, rimangono ovviamente iscritti all'ENPAM perché sono iscritti agli ordini, quindi assumono questo ruolo di doppia e quindi di non esclusività di iscrizione, quindi una doppia iscrizione, e per questo sono esclusi dai benefici. Ce ne sono altri, non solo. Scusi, ma posso fare una semplificazione giornalistica? Possiamo dire che il decreto legge 23 ha tagliato fuori dai 600 euro 30.000 specializzandi, punto e basta, è così? Allo Stato sì. Ecco, no, appunto, volevo che fosse chiaro, perché mi sembra una cosa veramente, scusami, abominevole. Stato, sì. In questo momento abominevole. È l'uovo di Pasqua. Va bene, Deborah, domanda, prego. Presidente, in più i 1.000 euro per 3 mesi, quindi stiamo parlando di fino a 3.000 euro di sostegno, se avremo l'approvazione ministeriale, saranno tassati. I 1.000 euro che ha deciso l'ENPAM per sua iniziativa personale. Sì. Ma questo non solo l'ENPAM, ma credo che anche i consulenti del lavoro l'abbiano fatto, esatto. Credo che anche i commercialisti stiano studiando iniziative analoghe, insomma, tutte tassate. Presidente, lei adesso ci ha detto andrete con questo supplemento di raccolta dati, poi farete il tagliando di controllo, come l'ha ribattezzato prima, con il Ministero dell'Economia. Esiste in prospettiva la possibilità che comunque questa situazione possa essere corretta? Non so se esiste un veicolo legislativo al quale agganciarsi prossimamente, perché anche questo è complicato. Insomma, come potrebbe essere utilmente rimediata la situazione? Ma guardi, io non sono un avvocato, però le dico questo, che esiste un decreto legge 18/2020 che nel suo articolo 44 parlava del fondo di ultima istanza e in questo articolo parlava di un decreto legge interministeriale lavoro e economia che doveva declinare le sue condizioni. Noi abbiamo fatto la nostra raccolta dati sulla base della declinazione stabilita da questo decreto legge dall'articolo 44. Adesso esce un nuovo decreto legge che è il 23/2020, il cosiddetto decreto liquidità, che stabilisce, va a toccare un decreto legge che peraltro ancora non è andato in conversione. Cioè, siamo veramente a una confusione da far venire il mal di testa, insomma, come ha detto qualcuno. Io a questo punto non so cosa si possa prevedere, insomma. Ma speriamo che a questo punto, visto che c'è un decreto legge ancora da finire di discutere, anche se ha avuto ormai il voto di fiducia, ed è il 18 quello che non prevedeva la stretta, per così dire. E sta lì, ha avuto il voto di fiducia, sta arrivando. Peraltro quello lì invece ha delle misure di espansione della platea, quindi bisognerà poi che qualcuno si metta d'accordo con se stesso. Arriva un nuovo decreto legge che adesso dovrà andare in Parlamento per essere convertito, quindi ci sono due veicoli, in pratica due treni normativi che rischiano un po' di andare in direzioni ostinate e contrarie, per usare il grande De André. Esatto. Va bene, mi scusi, Presidente Olivetti. Buona Pasqua, diciamo così. Buona Pasqua, ci auguriamo che questo venga rimediato. Deborah, vuoi tu introdurre gli altri argomenti della giornata? Ringraziamo naturalmente il Presidente Olivetti. Esatto, ti ringrazio. Io direi che siccome è molto tardi rinviamo il nostro giornale radio del risparmio, avevamo due notizie molto veloci, adesso vediamo come darle in qualche maniera, ma noi parleremo quest'oggi di sospensione tra virgolette degli affitti commerciali, perché anche questo è un tema molto interessante per molti ascoltatori esercenti di negozi che hanno il loro negozio in affitto e che naturalmente adesso non possono pagarlo, quindi non ci sono solamente i privati in questa situazione, ma ci sono molti esercizi commerciali. Cercheremo di capire con l'aiuto di un legale come possono risolvere la loro situazione nel caso in cui con il conduttore non si venga appunto ad un accordo, con il locatore non si venga ad un accordo. E poi parleremo dell'attività, della vita di condominio, perché anche questa vive i suoi problemi in questo periodo e ci chiediamo come stanno gestendo le problematicità gli amministratori di condominio in questo momento. Per esempio, caro Mauro, si possono sospendere le rate delle spese condominiali se la rata arriva in questo mese e noi non riusciamo a pagarla? Non ci sono solo le problematiche appunto dei lavoratori, delle aziende, anche la vita di condominio vive i suoi momenti di emergenza in questa fase, che è naturalmente un'emergenza per tutti. Per cui 800 24 00 24, se volete già cominciare a mandarci le vostre domande su questo argomento. Passerei subito alla pillola di Investire Informati di oggi. Come al solito offriamo ai nostri ascoltatori dei consigli ai risparmiatori per affrontare questi momenti difficili e mercati ballerini, e cerchiamo anche di approfittare magari di queste giornate per mettere ordine nella nostra pianificazione finanziaria. Il consiglio di oggi ci arriva da Domenico Sermiento di Napoli, consulente finanziario in Assiteca SIM. Investire informati. Questo è quanto mai il momento giusto per riflettere su se stessi in relazione alla capacità di produrre reddito, scegliere e quantificare i propri obiettivi economici, ma prima ancora riflettere sulla tutela della salute. In tanti ancora sprovvisti di un piano sanitario, polizza vita, strumenti questi che possono integrare le spese e supportare le emergenze. In tanti rischiano così di sottrarre risorse a se stessi e ai loro affetti. Comprendere quindi gli errori nella gestione delle esigenze, elaborare una propria opinione in merito alle motivazioni che ne derivano, sembra quanto mai opportuno. Di solito si è orientati a cercare soluzioni che più ci rendono le cose semplici. Mi affido alla banca o al consulente senza mai approfondire. Quindi comodità, pigrizia, disinteresse, questa è la situazione espressa ancora oggi purtroppo da tante persone. A tal proposito cito una storia del ciclo di Nasuddin che appartiene alla tradizione Sufi. Un uomo vide Nasuddin che cercava qualcosa per terra davanti casa. «Cosa hai perso?» gli chiese. «La chiave», rispose. Si misero tutti e due in ginocchio a cercarla. Dopo un po' l'uomo chiese ancora: «Dove ti è caduta esattamente?» «In casa», rispose Nasuddin. «Ma allora perché la cerchi qui?» «Perché c'è più luce che dentro casa». Ecco, mi auguro che questo mio messaggio possa essere di aiuto a tracciare una linea comportamentale da seguire per poter trovare la soluzione, quindi saper pianificare col supporto di un consulente finanziario gli obiettivi di vita e non subire quelli degli altri. Un sorriso a tutti. Apriamo il secondo dei temi di questa trasmissione, questa puntata molto ricca. Abbiamo in collegamento l'avvocato Massimo Di Terlizzi, studio Pirola Pennuto Zei Associati di Milano, per parlare con lui della questione degli affitti, perché è una questione molto sentita, diciamo, da tutti, e naturalmente lo vediamo anche dai messaggi dei nostri ascoltatori. Buongiorno avvocato Di Terlizzi. Buongiorno, buongiorno. Allora, vogliamo intanto riepilogare, diciamo così, le regole base. Non ci sono provvidenze di sorta per gli inquilini, per gli affitti. C'è solo un credito d'imposta per gli affitti, categoria C1, degli immobili commerciali, negozi, per parlare così un po' brutalmente, sì. con termini magari non tutti decisamente sì. appropriati. Fino a qui siamo tutti d'accordo, giusto, avvocato? Sì, è corretto. Ecco, ma allora che succede? Se l'inquilino non paga, che si fa? In un momento come questo verrebbe da dire, vabbè, ci si mette la mano sulla coscienza, cerchiamo una soluzione, ma quale? No, allora, innanzitutto diciamo che nel decreto Cura Italia c'è comunque una clausola di salvaguardia di carattere generale che vale non solo per i contratti di locazione, ma in genere per tutti i contratti, che quella norma, praticamente l'articolo 91, che dice che ai fini dell'applicazione di eventuali o penali o decadenze o altro, quindi nel caso, se parliamo di contratti di locazione, possiamo pensare all'applicazione di interessi di mora in caso di ritardo dei pagamenti o addirittura anche a procedure di sfratto, nel caso di contenzioso, giusto per tenere conto degli effetti dell'emergenza Covid-19. No? Quindi già qui il concetto è: se pago in ritardo, comunque ho una certa salvaguardia sull'applicazione di penali. Questo è il primo punto. Il secondo punto, se parliamo invece di riduzione del canone non abbiamo né nel decreto né nel nostro impianto normativo abbiamo una norma che preveda una tale ipotesi. Nel nostro codice civile, sia nella cosiddetta legge sulle locazioni, ci sono sostanzialmente due norme. Nel codice civile una norma che parla di eccessiva onerosità, che sì. praticamente prevede nel caso in cui, a seguito di eventi straordinari sorti successivamente alla sottoscrizione del contratto, eccetera, eccetera, come può essere per esempio l'emergenza coronavirus, qualora il contratto, cioè qualora la controprestazione, quindi il rispettivo, diventi eccessivamente oneroso per il debitore, a questo è concesso risolvere, chiedere la risoluzione del contratto, anche qui senza pagare o penali o canone scadere, eccetera. È chiaro che sotto il profilo oggettivo bisogna provare che gli effetti sono sorti in un momento successivo. Forse Mauro è il caso di richiamarlo. Scusate, perché sì. si sente molto a fatica. Hai sì. ragione Deborah, infatti mi hai tolto, come dire, le parole di bocca, nel senso che è il 30° minuto, non abbiamo degli aggiornamenti dai mercati oggi. Ma... assolutamente no. Ecco, perché i mercati sono chiusi, mi pare, o sbaglio? Chiusi, Venerdì Santo, chiusi dappertutto a parte in Asia questa mattina, dove in qualche maniera c'è stato qualche movimento, ma la situazione era abbastanza tranquilla. E qua la chiudo. Allora, sono le 11, 30 minuti. 40 secondi, facciamo un breve spazio pubblicitario, così richiamiamo e miglioriamo il collegamento con l'avvocato Massimo Di Terlizzi. Pubblicità. Ho apprezzato particolarmente il sapiente uso dell'enjambement. Due di denari. Giusto non dargli a pioggia questi contributi. Sono un architetto di Bergamo, ho continuato con i miei collaboratori a lavorare e quindi non vedo perché debba ricevere questi soldi. Non ne usciremo mai. È impossibile fare un decreto decente in Italia. Non ne usciremo mai. Ma se è anche dipendente il professionista, per lui molto probabilmente scatterà la cassa integrazione. Il problema non lo vedo, grazie. Vi ricordo che ci sono pensionati che vivono con 450 euro al mese i professionisti che si lamentano perché non rientrano provassero ad andare a mangiare alle mense della Caritas di Sant'Egidio, magari confondendosi con gli altri capiranno come funziona la vita. Cara Deborah, la vita è come uno stadio, c'è sempre qualcuno che vede meglio di te e qualcuno che vede peggio, stai in un posto peggiore di te, e questi sono i messaggi che lo testimoniano. Mi spiace diciamo che un po'. Mi sento di appoggiare soprattutto l'ascoltatore del messaggio numero 2, facessero mai un decreto decente, ha ragione anche lui. Più che altro è questo che un po' sconcerta, perché se prima stabiliamo una regola e ci organizziamo per seguire questa regola, poi insomma diventa un pochino complicato. Ricordo comunque che l'erogazione di 600 euro di ultima istanza da parte delle casse era vincolata a un tetto di reddito, quindi non è che viene data a pioggia a tutti quanti. Mi spiace del messaggio di Marco da Arezzo che dice: se milioni di italiani sono fuori da questi provvedimenti, voi giornalisti ben pasciuti nemmeno ve ne rendete conto. Ora, sul ben pasciuto posso essere d'accordo, perché purtroppo la quarantena mi ha ridotto nell'esercizio fisico. Sul fatto che non ce ne rendiamo conto, credo che questa trasmissione, scusate l'accenno polemico, invece stia a testimoniare il contrario. Torniamo dall'avvocato di Terlizzi, Deborah. Sì, volentieri. Avvocato, allora, dove eravamo rimasti? Per la verità l'abbiamo sentita qualitativamente parlando un po' male. Allora, facciamo proprio un punto di sintesi molto stringato e di servizio per i nostri ascoltatori. Okay. Conduttori e locatori di un esercizio commerciale, appunto. Come si stanno comportando? Qual è la prassi che state vedendo in questo momento? Capiamo la necessità di buonsenso fra le due parti, naturalmente, ma ci sono anche poi delle ragioni economiche che spesso rendono difficili arrivare ad un punto di sintesi fra le due parti. Per l'appunto, ci dia qualche indicazione. No, dunque, allora abbiamo detto che sotto il profilo giuridico è possibile nella sostanza sospendere il pagamento, ma non ci sono norme che prevedono la riduzione del canone nonostante il periodo di emergenza. Ci sono però norme che prevedono la possibilità, o in caso di eventi verificati successivamente alla sottoscrizione del contratto, come può essere questa emergenza, o secondo la legge sulle locazioni, in caso di gravi motivi, questo è esattamente quello che la norma dice, che nella sostanza, in entrambi i casi, che cosa vuol dire? Che il conduttore non è più in grado di esercitare la sua azienda in quel locale, oppure che il canone il corrispettivo del canone è a questo punto talmente alto che non gli permette di continuare, cioè ricavi zero perché è un esercizio chiuso, o canone continua a essere dello stesso importo, è chiaro che non vivo più. Allora, a questo punto, qualora questa situazione arrivi addirittura a incrinare la possibilità di continuare l'esercizio, c'è la possibilità di rescindere il contratto, punto. Quindi è detto questo per dire cosa? Abbiamo unicamente la possibilità di rescindere il contratto e non di chiedere una riduzione, questo sotto il profilo giuridico. Sotto il profilo sostanziale è chiaro che il locatore che si trova di fronte all'alternativa o di aspettare o di rimodulare o rinegoziare il canone oppure rescindere il contratto, è chiaro che secondo me in questo momento ci penserà un pochino, anche perché se il signor Rossi lascia l'immobile, il signor Bianchi che arriva sarà nella stessa situazione. Non è che lo riaffitta subito, esatto. Quando lei parla, avvocato, di sospensione del pagamento, quindi diciamo del contratto, questo non significa cancellazione eventualmente del pagamento pregresso, un po' come funziona per il mutuo: ti sospendo la rata del mutuo, ma poi lo ricominci a pagare. Ecco, quindi c'è rimane norma, comunque poi una condizione di debito. Esattamente, cioè nel decreto Cura Italia c'è una norma che prevede che si debba tener conto ai fini dell'applicazione, quello che dicevo prima, mi spiace che non si sia sentito, ai fini dell'applicazione di penali, che nel caso specifico di contratti di locazione sarebbero interessi di mora, o addirittura possiamo parlare anche di procedure di sfratto, che nel caso il giudice debba tenere conto che tutto questo si è verificato in seguito all'emergenza coronavirus, no? Quindi francamente diventa difficile l'applicazione in questo momento, a parte che in questo momento i tribunali sono bloccati, eccetera, quindi anche il locatore che volesse partire con azioni legali o altro non sarebbe neanche nella possibilità di farlo, no? Quindi sospensione sì, e ragionevolmente senza applicazione di interessi di mora o il rischio che domani mattina il locatore parta con una procedura di sfratto, possibilità di considerare che in questi due mesi il canone non debba essere pagato, no, questo è il punto, quindi può essere rimodulato o può essere rinegoziato, però questa è una trattativa di carattere privatistico che deve essere lasciata alle parti, non c'è una norma. Se io affitto avvocato un locale a mio cugino e gli voglio concedere per due mesi di non pagarmi l'affitto, naturalmente sono totalmente libero di farlo, certo. Quello, come dice lei, ma è chiaramente oggetto di trattativa privata, cugino. Ma sì. Diciamo che sarebbe più facile che io lo facessi con mio cugino, forse con una persona, o magari con una persona che mi ha sempre pagato, sta lì da 20 anni ed è stato assolutamente sempre molto regolare nei pagamenti, brava. Per due mesi. Ecco. Ha fatto l'esempio calzante, se io se il mio conduttore, so che un conduttore che ha sempre adempiuto, è una brava persona, ha sempre fatto il suo, chiaro che dire oggi perché non mi paghi, perché adesso sei in difficoltà, perché nei prossimi mesi non ha... i tuoi volumi di vendita saranno scesi, eccetera, quindi avrai difficoltà a pagarmi, interrompo il contratto, francamente il rischio poi di trovarne forse uno che sia anche peggio, no? Quindi il locatore ci dovrebbe pensare. È vero che questo appunto può dare margini, diciamo, per una trattativa privata, ma se uno riduce, se il locatore decide di ridurre l'affitto, deve poi comunicarlo subito, tempestivamente, certo, all'Agenzia delle Entrate? Nel momento in cui viene ridotto il canone, sì, di locazione, chiaramente deve essere formalizzato contrattualmente, poi a secondo del regime fiscale che, sì, che il locatore ha, che il conduttore ha, no? Cioè, è chiaro che l'importo che sarà poi dichiarato sarà inferiore, però non c'è una comunicazione, no, da fare. La comunicazione vale per il discorso del decreto d'imposta, quello che accennavate prima. Ok, per questo. Poi, tutto questo, se vogliamo complicarci un po' la vita, ci sono anche i casi dove anziché un contratto di locazione è stato, questo non funziona, è qualcosa che si trova soprattutto con i centri commerciali, anziché un contratto di locazione è stato sottoscritto un contratto di affitto di azienda, no? Sì. Allora, in quel caso potrebbe forse essere applicata una regola differente che sostanzialmente dice che nel momento in cui la prestazione, quindi l'esercizio dell'azienda, diviene parzialmente impossibile, il conduttore ha diritto a una riduzione del prezzo sostanzialmente, no? Ma qui perché qual è la differenza sostanziale? Perché nel momento in cui io le affitto l'azienda, le affitto un'entità che dovrebbe essere funzionante, no? Quindi che dovrebbe produrre reddito, nel momento in cui l'azienda viene bloccata le sto affittando qualcosa che non funziona, sì. Mentre se le affitto un immobile, l'immobile a prescindere lei ce l'ha a disposizione, no? Quindi, e quindi per questo motivo non è previsto, è previsto il credito d'imposta per un caso e non per l'altro. L'avvocato... Il credito d'imposta, scusi, è un discorso proprio differente che riguarda espressamente il conduttore, ma non il rapporto tra locatore e conduttore. Il conduttore è una cosa proprio a sé stante, no? Grazie. Però anche qui non è che pacificamente domani mattina, siccome ho un contratto di affitto d'azienda, scrivo al mio locatore e il locatore mi dice bene, per questi due mesi il canone sarà zero, perché chiaramente poi sapete che non è semplice, noi abbiamo le norme e poi le norme devono essere anche interpretate, no? Quindi la sfinge che dall'altra parte si è interpretata in un altro modo, quindi a questo punto può nascere un contenzioso, quindi alla fine il consiglio è sempre quello di cercare di negoziare al meglio in buona fede, tenuto conto un po' di tutto, insomma. Grazie all'avvocato Massimo Di Terlizzi. Deborah, passiamo senza por tempo in mezzo al tema del condominio, che è il nostro ultimo tema. E c'è un altro avvocato. Oggi ci siamo voluti tutelare in qualche modo. E allora è tornato a trovarci Eugenio Correale, collegato telefonicamente naturalmente per rispettare il distanziamento. Buongiorno avvocato Correale. Buongiorno, buongiorno. Allora, il condominio, questo sconosciuto. Cominciamo dall'amministratore. Può andare in studio sì o no a fare il suo lavoro o deve farlo da remoto e non può entrare in studio, avvocato? La regola è chiaramente quella, tutto quello che puoi fare a casa lo fai da remoto e questo vale per l'amministratore e per i collaboratori. È possibile poi che ci siano delle situazioni di assoluta emergenza, in Lombardia abbiamo addirittura una normativa particolare e occorre comunque considerare che l'accesso in studio dovrebbe essere limitato all'osso. E l'osso è un osso molto molto scarnificato, riferito unicamente alle situazioni di urgenza. Questo vale per l'amministratore e anche gli eventuali dipendenti del suo studio, quindi pure questi, lavorare da casa possibilmente, da stare a casa, da remoto, giusto? Io farei una piccola differenza tra il titolare e i dipendenti. Nel caso dei dipendenti più che un suggerimento è sostanzialmente un obbligo. Poi può accadere, ed è accaduto, che il titolare dello studio sia ammalato, non abbia la possibilità di recarsi in studio, il condominio rende dei servizi assolutamente essenziali. Al di là di quello che può accadere per situazioni specifiche, per eventi particolari, immaginiamo quello che accade se un condomino si ammala ed occorre provvedere, occorre dare le istruzioni al portiere perché non si ammali, occorre dare i materiali, occorre i materiali e le misure di salvaguardia personale, quindi l'amministratore deve funzionare, l'amministrazione del condominio, è bene che funzioni con il sacrificio del titolare che è abituato peraltro a impegnarsi per quanto può, in situazioni del tutto eccezionali si può immaginare che ci sia un intervento da parte dei collaboratori, la regola è una sola, stiamo a casa perché se non si stabilisce che stiamo a casa, corriamo il rischio che tutti vadano in giro e a Natale siamo ancora qui. E ci hanno detto e ripetuto che dobbiamo stare a casa. È il 45esimo, allora chi invece deve viaggiare perché è autorizzato a farlo e deve farlo per mantenere i rapporti, insomma l'attività essenziale, a questo punto avrà le informazioni sul traffico. Due di denari. Siamo noi, condomini del mondo. Siamo noi, responsabili del mondo. Ecco sì, adesso condomini del mondo magari è un po' un'estensione ampia, però con l'avvocato Eugenio Correale ci sono diverse cose di condominio che vorrei chiarirmi pure io, Deborah, sai, perché anche io ho questi problemi. Ma allora, si può mandare i bambini a giocare nel cortile o nel giardino condominiale? Perché questo è un oggetto di dibattiti, direi anche abbastanza accesi. Avvocato Correale. Se io potessi raccontare tutto quello che sta accadendo sul punto, probabilmente farei ridere mezza Italia. Molte persone... No, invece ce lo deve raccontare, avvocato. Allora glielo dico volentieri, dottoressa. Siccome questa è una crisi drammatica per molti, ma che sta facendo emergere anche uno spaccato sociale altrettanto inedito, e se solo io e Mauro potessimo raccontare le richieste allucinanti che ci arrivano al nostro pronto soccorso del pomeriggio, come lo chiamo io, qua veramente ci sarebbe anche da aprire un altro tipo di dibattito. Non è il caso di farlo a due di denari, ma io la prego, avvocato, invece di raccontarci le curiosità che emergono dalla vita condominiale, che già è fonte di ispirazione da molti punti di vista. Ma molto volentieri. Guardi, le faccio solo un esempio. Un amministratore ha ricevuto un proclama di 2 pagine sul diritto di palestra. In quel condominio c'è una palestra e quei condomini si erano visti chiudere la palestra e hanno emesso un proclama sul diritto costituzionale alla palestra. Anche per il cortile c'è da sorridere, perché c'è gente che ritiene che quando la normativa parla di abitazione, e allora va inteso non solo i 50, i 200, i 400 metri quadri dell'appartamento dove vivo, ma anche tutto quello che è parte comune del condominio. Applicando questo principio, a Milano San Felice ogni condomino potrebbe avere 10 ettari a disposizione. Sì. Ora, senza proseguire nella aneddotica, che mi creda è assolutamente infinita, occorre considerare che la normativa di emergenza parte da un concetto: se non stabilisco un divieto e permetto a ciascuno di fare quel che vuole, alla fine ciascuno farà quel che vuole. Quindi c'è un principio di cautela alla base della normativa di emergenza. Il divieto si rende necessario per impedire che ciascuno si faccia la regola da sé. Torno alla domanda che mi ha fatto. Gioco dei bambini nel cortile, diritto di utilizzare un locale condominiale per esercizi fisici. Qui davvero occorre buon senso. In situazioni particolari dove c'è un condominio abbastanza piccolo, i condomini sono pochi, perché no? In una situazione come Milano San Felice, cioè un grosso supercondominio con 10 ettari di parco, come si fa a consentire a 10.000 abitanti di considerare quello spazio verde come il proprio giardino di casa? Lo spazio comune. Certo. Diventa difficile, occorre buon senso. Certamente è possibile, e anzi è utile, è utilissimo, che laddove non ci siano situazioni che lo sconsiglino, perché l'obbligo di cautela lo vieta, l'amministratore può dettare una disciplina, che sia una disciplina di orari, prevedere che siamo 5 condomini, scaglioniamo il momento in cui i rispettivi bambini possono andare a giocare. E a me è accaduto di vedere dalla mia finestra dei bambini di 8-10 anni finalmente liberati e correre nel giardino condominiale, ed era francamente un qualcosa di talmente bello e talmente positivo per quei ragazzi, che andarglielo a vietare in via assoluta diventa irragionevole. Devono essere bambini, i fratelli e sorelle, insomma, a conviventi. Direi il minimo. Non dobbiamo fare uno spazio giochi comune, perché altrimenti è finito l'obbligo di stare. Guardi, io non ho figli, quindi lascio giudicare a chi le ha, ma lei pensa che un bambino di 8 anni possa essere disciplinato nel senso di fermarsi e non avvicinarsi al suo coetaneo? No. Io ritengo di no. Ecco. Ma quindi va sorvegliato, insomma, oppure come dice lei si fanno dei turni e si dice lo spazio è utilizzabile, lo spazio comune del giardino, del cortile è utilizzabile, ma solo in una certa fascia oraria, o mettiamoci d'accordo, o anche magari insomma si cerca di non essere lì, di essere lì scaglionati. Ecco, questa mi pare la soluzione di buon senso, ecco, che lei sta dicendo. Lei mi ha dato il destro per aggiungere un qualcosa meno aleatorio, un po' più specifico. Il motivo per il quale la palestra può essere chiusa in alcune situazioni deriva dal fatto che non basta mettere una disciplina, occorre anche avere una ragionevole previsione che quella disciplina sia adottata e sia rispettata. Allora, se io ho un condominio con tanti condomini, come faccio a stabilire dei turni certo che sarà rispettato? Guardi, in questo davvero la professionalità dell'amministratore, io non parlerei di buon senso, che è un concetto troppo generico, la professionalità dell'amministratore, che sa esaminare le varie situazioni, sa rendersi conto di quello che può accadere e lo prevede, davvero essenziale. Se mi permette, farei una considerazione: noi ci stiamo soffermando su sanzioni previste dai vari decreti legge, e in realtà non sarebbero del tutto necessarie queste normative speciali. La necessità di tutelare gli altri, non far danno agli altri, deriva già dalla nostra normativa. E allora, e dai regolamenti condominiali, che certo, sono in genere molto certo, chiari su certo, questi punti. Certo, ecco. Certo. E allora mi permetterei di dire questo: non abbiamo paura di una sanzione di 100 euro, di 200 euro, abbiamo paura delle cause di risarcimento che potranno essere fatte un domani. Se mi dà spazio, faccio un'osservazione che può sembrare strana, ma che è molto dell'oggi. Ci ricordiamo. Volentieri, poi avvocato, vada breve, perché io lo voglio chiedere anche delle rate per chi non riesce a pagarle in questi mesi di difficoltà nel mondo del lavoro, ovviamente meno entrate e quindi uscite problematiche, poi ci deve chiarire anche un po' il punto su come si stanno comportando gli amministratori che non riescono a raccogliere le rate in scadenza in questi mesi. Prego. Brevissimo, parlo del fumo passivo. Ricordiamo le sentenze che dicono che il datore di lavoro che espone il dipendente al fumo delle sue sigarette può rispondere di danno. Ecco, là non è che ci sia una normativa speciale che dica tu non puoi fumare nella tua stanza. Il punto è che quando si commettono si espletano delle condotte che possono esporre gli altri a rischi, poi si risponde di danno. Se utilizziamo quei principi anche a questa situazione di emergenza, ci rendiamo conto che la cautela, stare a casa, non esporre gli altri al rischio, deriva dalla normativa speciale, ma prima ancora deriva dalla situazione di emergenza. Avvocato, allora riprendo la domanda di Deborah, la ringrazio per i chiarimenti fin qua. Abbiamo 2 minuti per chiarire se le rate, se non posso pagarle, perché ohimè può capitare in questo periodo, che devo fare? Per Bacco, un noto direttore d'orchestra mi ha spiegato che tutti i suoi concerti sono stati annullati e che lui aveva appena comprato un appartamento, per cui lascio immaginare, molti condomini hanno difficoltà a pagare e certamente in questo periodo nessuno può pensare di ottenere decreti giuntivi, ma che meno di fare decreti giuntivi, esecuzioni, pignoramenti. Peraltro mi sento dal mio osservatorio, io sono in contatto con moltissimi amministratori, di dire che la situazione attuale non è ancora particolarmente critica. I condomini ci tengono ai loro servizi, ci tengono ad avere il portiere, oggi esatto, più che mai, e normalmente il livello di morosità non si è ancora accentuato particolarmente, vede come sono cauto. I condomini stanno pagando, le dirò che quando l'amministratore è professionale, manda i consultivi, manda i riparti, spiega quello che sta facendo, i condomini non solo pagano le rate già approvate dall'assemblea, ma nei limiti del possibile, nei limiti di quello che gli è consentito dalle disponibilità economiche, stanno anche pagando somme che non siano già approvate dall'assemblea, ma che loro si convincono essere dovute, perché altrimenti il portiere non ci sarà, l'impresa di pulizia non torna e così via. La situazione attuale non è del tutto non è ancora negativa, preoccupante. Sotto... Ecco, lei con quella ancora ha riassunto il tutto. Allo Stato no, ma i timori sono notevoli. Grazie all'avvocato Eugenio Correale, grazie a tutti voi che ci avete seguito anche quest'oggi. Continuate a scriverci 2didenari@radio24.it per le altre questioni. Grazie a Danilo Di Trani, oggi grande fratello nerazzurro, badante di prossimità. E grazie alla regia, a Peter Bescapè, al quale indirizzo gli auguri, a lui per tutti quanti gli assistenti che in queste giornate sono presenti. E naturalmente auguri anche a te, Deborah, buona Pasqua a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie anche a voi. Chiudo solamente con un messaggio, perché sto leggendo gli sms che ci sono arrivati questa mattina. Io vi prego, vi scongiuro, smettiamola con le richieste improbabili. Le persone che non vogliono pagare l'assicurazione dell'auto perché la stanno tenendo ferma in questi giorni, per me sono messaggi irricevibili. Vi prego, c'è gente in grande difficoltà, non cerchiamo veramente il pelo nell'uovo quando non è il caso di farlo. Per cortesia, quindi scusami Mauro, ma veramente sto leggendo delle cose impossibili nell'SMS quest'oggi e volevo chiudere almeno con questo invito al buonsenso a tutti. Grazie. Cerchiamo e buona l'uovo Pasqua. Di Pasqua invece. Auguri. Ecco.